Il terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto. Al bel vedere, nonostante il colera, la Zitelluna s'occupava d'affari, appartandosi con gli uomini che se ne intendevano, parlando di mutui, di ipoteche, di crediti da poter accordare, di fallimenti da temere. E mentre il principe di Roccasciano esponeva alla speculatrice i piani laboriosi coi quali costruiva pazientemente e lentamente l'edificio della propria fortuna, la principessa sua moglie, di nascosto da lui, si giocava con Raimondo e con gli altri appassionati delle carte tutto quel che aveva in tasca. Il principe Giacomo vedeva qualche volta giocare senza mettere fuori un baiocco, ma il più del tempo discorreva con quelli del paese. Venivano a fargli la corte, il medico, lo speziale, i possidenti più grossi, la gente la cui cera gli andava verso, perché quanti tra i familiari della madre gli parevano iettatori erano stati da lui messi fuori. Non mancavano il vicario, il cappellano, tutte le sottane nere del villaggio. Come in città, la casa Uzeda era qui frequentata da tutto il clero regolare e secolare, per la sua fama di devozione e per il bene sempre fatto alla chiesa. Solo la contessa Matilde, fra le generali distrazioni, non riusciva a nascondere il proprio dolore. La verità non le si era improvvisamente svelata all'annunzio che gli andava al Belvedere, dove andava la Fersa. Perché mai egli, così insofferente di vivere in Sicilia, s'era rifiutato a partire per il continente, se non perché voleva restare vicino a colei? E aveva finto di non sapersi decidere, per aspettare che si decidesse quell'altra. E aveva mendicato pretesti e accusato il suocero, e sì bene temporeggiato che allo scoppio della pestilenza aveva fatto a modo suo. Che giorno, quello della fuga al Belvedere, per le vie arroventate dal sole, in mezzo a nuvoli di polvere calda e soffocante. Ella era nella stessa carrozza con Chiara, Lucrezia e il marchese, e la vista delle cure che questi prodigava alla moglie faceva più acuto il suo dolore. Raimondo non s'era voluto metter con lei. L'aveva lasciata sola in quella corsa per i villaggi, dove gente armata fermava ogni persona ed ogni veicolo, contrastando il passo. Ma comprendeva ella nulla di tutto questo, vedeva nulla sul suo cammino. La sera di quel giorno, appena cominciò a venir gente, ella andò a chiudersi nella sua camera. «Cognata!» era la voce del principe. «Che fate? Perché non venite giù? C'è molta gente stasera, si gioca!» Ella levossi, acconciò con la mano tremante i capelli scomposti e discese. Quell'altra era finalmente venuta. In quel momento Raimondo le stava al fianco, però aveva appena preso posto accanto alle cognate che la udì nominare. Qualcuno diceva: «La casina affittata a donna Isabella». Ma i Fersa dove se ne sono andati? Era proprio Raimondo che faceva questa domanda. Non sapeva dunque dov'era colei. Ella comprese a un tratto. La gola le si strinse convulsamente. Andata via senza dir nulla, attraversò la casa con gli occhi gonfi e il cuore tumultuante. Giunta nella sua camera, cadde ai piedi dell'immagine della Vergine, scoppiando in pianto dirotto. Pianto di gioia, di gratitudine, di rimorso anche, poiché ella aveva sospettato degli innocenti. Lontano dal tavolino, Raimondo s'annoiava. Se non poteva combinare una buona partita, smaniava contro la noia di quel villaggio, contro la conversazione dei villani, contro gli stupidi divertimenti della tombola e delle gite sugli asini. Ella poteva dirgli: «Con chi te la prendi? Non volesti venirci tu stesso?» Però taceva, affinché egli non prendesse quelle parole come un rimprovero. Invece, vedendolo di cattivo umore, gli domandava dolcemente che avesse. «O che mi secco, non lo sai?» egli rispondeva. «Che vuoi farci? Quando il colera cesserà torneremo a Firenze. Perché non vai al casino?» Egli non se lo faceva ripetere. A poco il gioco diveniva indiavolato e nel giro di poche ore facevano differenze di centinaia d'onze. Alla villa Francalanza continuava la vita allegra. Tutte le sere conversazione e gioco. Raimondo era adesso il più assiduo alla tavola verde. Quando egli prendeva le carte, le poste aumentavano e il rischio cresceva. Nessuno in casa diceva nulla a Raimondo. Il principe, già più alla mano con tutti, pareva studiarsi di non pesare per nulla al fratello. Un giorno questi, poiché da Milazzo per via del colera tardavano a mandargli denari, gli chiese in conto delle rendite ereditate qualche centinaia d'onze. Il principe mise la propria cassa a sua disposizione. Egli tornò ad attingervi a più riprese. Naturalmente, se il colera non finiva, non si poteva far nulla per la sistemazione dell'eredità. Avrebbero fatto un poco d'economia per raccogliere le 16.000 onze occorrenti. Giacché, se Lucrezia doveva averne 10.000, a Chiara ne toccavano soltanto 6, dovendosi sottrarre le 4 da lei avute nel maritarsi. Prima, però, bisognava pagare i creditori e mettere tutto in pulito. Frattanto, per guadagnar tempo, potevano mettersi d'accordo loro due per la divisione. E a nessuno di quei ragionamenti del fratello Raimondo trovava nulla da obiettare. «Va bene, va bene», era la sua risposta. In mezzo a questa pace piombò un bel giorno Don Blasco da Nicolosi, a cavallo d'un gigantesco asino della Pantelleria. Scappato con tutto il convento, il monaco non aveva messo fuori neppure il naso nelle prime settimane, per paura di prendere il colera con l'aria che respirava. Ma visto che per la campagna prosperavano uomini e bestie, rassicuratosi sul pericolo del contagio, udito finalmente che al belvedere facevano baldoria, non stette più alle mosse. Non risparmiò nessuno. I discorsi di Chiara e del marchese relativi al corredo del nascituro gli fecero montare la mosca al naso. Le notizie dei Giulente lo imbestialirono, ma quel che gli fece perdere il lume degli occhi fu la lettura del giornale di Catania portato dal principe di Roccasciano nel pomeriggio, quando cominciarono a venire le prime visite. Subito dopo il bollettino del colera si leggeva in quel foglio: «La generosità dei nostri cospicui patrizi non poteva mancare, in tempi tanto calamitosi, di venire in soccorso della sventura. L'illustrissimo don Gaspare Uzeda, duca d'Oragua, benché lontano dai suoi concittadini, pure ha fatto tenere al nostro senato la somma di ducati 100 da distribuirsi in soccorso dei più bisognosi». 100 ducati buttati via per soccorrere i bisognosi? Dite piuttosto, per fregola di popolarità, 100 ducati buttati a mare, quasi che quella bestia avesse molto da scialare. Qualche giorno dopo ci fu la visita del priore. Arrivò in carrozza, riposato e sereno. Salutò e abbracciò tutti. Volle entrare nella camera dove era spirata la principessa. Parlò della pestilenza attribuendola al corruccio del signore per le nequizie dei tempi. Poi annunziò che la cugina Radalì gli aveva scritto per avvertirlo che, appena cessato il colera, voleva mettere il secondo genito Giovannino al noviziato. Provvedimento lodevole, poiché col marito in quello stato la povera duchessa non poteva badare all'educazione di entrambi i figliuoli. Il principe disse che anch'egli forse avrebbe fatto altrettanto per Consalvo. Donna Ferdinanda, quantunque giudicasse soverchia ogni istruzione, pure riconosceva anche lei che mettere il ragazzo in un nobile istituto sarebbe stato secondo le tradizioni della casa. Quando Consalvo era stanco di molestare le persone e le bestie, se ne veniva infatti dalla zitellona e le diceva: «Zia, vediamo gli stemmi!» Gli stemmi erano l'opera del Mugnos, illustrata con le armi delle famiglie di cui il testo ragionava. La zitellona gongolava leggendo quella storia e dopo averla letta la ripeteva al nipotino con linguaggio meno fiorito, perché egli ne intendesse meglio il senso. La sua voce tremava di commozione nel ripetere la storia della rapina e i suoi occhi rapaci, come quelli dell'antenato, si infiammavano della secolare cupidigia della vecchia razza spagnola, dei viceré che avevano spogliato la Sicilia. Solo fra tutti Don Eugenio, quando non lavorava la memoria per disseppellire la nuova Pompei, assisteva alla lettura del Mugnos e citava altri storici della famiglia. Allora fratello e sorella passavano a rassegna il lungo ordine di avi, recitando la cronaca delle loro gesta, il secolare sforzo per afferrare e mantenere la fortuna, i tradimenti, le ribellioni, le prepotenze, le liti continue che gli scrittori narravano velatamente, senza giudicarle, e che essi magnificavano. Don Eugenio, di tanto in tanto, per edificazione del ragazzo, giudicava conveniente fare qualche dissertazione morale. Donna Ferdinanda invece lodava tutto, ammirava tutto. Verso la fine di settembre il colera crebbe di intensità. Il 25 il bollettino segnò 30 morti, ma si diceva che fossero più e che gli infetti superassero il centinaio e che qualche caso sparso inquietasse le campagne. Raimondo, per vincer la noia, essendo il giuoco interrotto per quel nuovo spavento, gironzolava spesso per i posti di guardia. Mentre quelli del Belvedere intimavano il dietro fronte con gli schioppi spianati e gli emigranti facevano valere le loro ragioni, mostrando certificati, pregando, minacciando, gridando, Raimondo, che se la godeva, s'udì a un tratto chiamare: «Don Raimondo! Contino! Contino!» E guardandosi intorno vide due donne che dallo sportello d'una polverosa carrozza gli facevano cenni disperati. «Donna Clorinda, voi qui!» Donna Clorinda era la vedova del notaio Limarra, famosa per l'allegria dimostrata in gioventù, ed ora, nella maturità prossima al disfacimento, per la bellezza della figliuola Agatina, la quale, seguendo le orme della madre, aveva civettato ragazza con tutti i giovanotti che le si erano stropicciati alle gonne. Maritata più tardi col patrocinatore Galano, gli procurava clienti d'ogni genere. Donna Clorinda, con un debole per i giovanotti nobili, era stata più di 10 anni addietro la prima conquista di Raimondo. Lasciata la madre, egli aveva poi ruzzato con la figliuola, ma senza molto profitto, perché l'aspettava di prender marito. Ammogliato egli stesso e andato via di Sicilia, le aveva perdute di vista. Donna Clorinda, che non s'arrendeva ancora, dava udienza a tutti, ma il posto accanto alla figliuola fu serbato a Raimondo. Per la libertà che regnava in quella casa, per il buon umore delle due donne, anche i rimasti a bocca asciutta ci venivano a passare la sera meglio che al casino, giocando, ciarlando, cantando. E Raimondo, smessa la noia, smessa la mutria, non rincasava più. Si faceva ancora una volta aspettare lunghe e lunghe ore dalla moglie, triste ed inquieta per il rinnovato pericolo della pestilenza, per i sospetti che quel repentino cambiamento rievocava, accorata più tardi dalle allusioni con le quali donna Ferdinanda, il principe, le stesse persone di servizio, le rivelavano gli antichi amori del marito. Una notte, dopo 4 mesi di siccità, scoppiò un terribile temporale. Il cielo scuro fu solcato da saette lucenti come spade, le strade si mutarono in fiumane limacciose, la grandine scrosciò sulle vetrate e sui tetti. Ella, che aveva sperato di veder tornare Raimondo alle prime minacce dell'uragano, aspettava ancora tremante di paura. Non una voce, non un rumor di passi. Il temporale cessò dopo un'ora e Raimondo non tornava ancora. Non gli altri maligni, ma egli stesso era bugiardo e incestuoso. Poteva più dubitarne. Quella spudorata non l'aveva anche lei guardata arditamente in viso, in atto di sfida, quasi dicendole: «Sono più bella di te, perciò egli mi preferisce». Ed era vero. La sua gelosia era tanto più umiliata quanto più ella riconosceva di non piacere a suo marito, ora specialmente che la gravidanza inoltrata la disformava. La voce di Raimondo, rauca, che chiamava il cameriere, la strappò all'alba di lì. S'era messo a letto e il ribrezzo della febbre gli faceva battere i denti. Allora ella asciugò le lacrime, corse ad assisterlo. Per 3 giorni non lasciò un momento il suo capezzale. Gli fece da infermiera e da cameriera, dimenticando la propria ambascia, per il terrore che quel male degenerasse nella pestilenza influente, restando sola presso di lui quando, insospettiti, nessuno della famiglia volle più entrarci. Guarito dell'infreddatura, egli non ebbe più nulla, però non era ancora del tutto ristabilito che pretese d'andar fuori. «Fallo per noi», scongiurò Matilde a mani giunte, «per nostra figlia, non t'esporre a un altro malanno». Non gli aveva detto nulla dei suoi sospetti, per non irritarlo mentre era infermo, ma ora gli buttava le braccia al collo e gli diceva, guardandolo negli occhi, passandogli una mano nei capelli: «Dove vuoi andare? Perché mi lasci? Resta con me!» «Voglio far 2 passi, mi sento bene», rispose, solleticato da quelle carezze, da quella sommissione di cane fedele. «Li faremo insieme nella vigna, non c'è bisogno d'andar fuori. Se è vero che mi vuoi bene, né sola, che non pensi ad altri». «A chi dovrei pensare?» esclamò Raimondo con sorriso fatuo di compiacenza. «A nessuna, a nessuna. A colei. Ma a chi? Alla Galano». Quel nome le bruciava le labbra. «Io», rispose con tono di protesta, «ma neanche per sogno. Vorrei un po' sapere chi ti mette in capo queste cose». «Nessuno. Lo temo io perché ti voglio bene, perché sono gelosa». Egli rideva di tutto cuore, rassicurandola. «Ma no, che ti salta in capo. E poi la Gatina, una che è di tutti, di chi la vuole». «È vero, è vero. Allora perché ci vai?» «Ci vado perché mi diverto. Perché è come andare al caffè, al circolo». «Allora, la sera che prendesti l'infreddatura?» «Mi inzuppai perché l'acqua mi colse alla ravanusa. Puoi domandarne se non ci credi». Sì, ella gli avrebbe creduto, Se la dolcezza con cui la trattava non fosse stata una nuova prova che egli aveva qualcosa da farsi perdonare. Ebbene, che le importava se era per questo? Qualunque fosse il sentimento che gli dettava quelle parole, esse erano buone, la toglievano almeno per poco al suo cordoglio. E con l'anima che riaprivasi alla speranza, ella lo udiva proporle. Del resto, ora che il colera sta per finire, andremo via tutti. Quando avrò sistemato gli affari della divisione con Giacomo, ce ne torneremo a Firenze. Ma per ora, se vuoi, faremo una corsa a Milazzo. Partorirai a casa tua. Ti piace? «Abbas! Abbas!» disse il fratello portinaio inchinandosi. «Che significa?» domandò allo zio priore Consalvo, che il padre conduceva per mano. «Vuol dire che l'abate è in convento», spiegò sua paternità. Su per lo scalone reale, tutto di marmo, il ragazzo guardava le pareti decorate di grandi quadri a mezzo rilievo di stucco bianco, sopra fondo azzurrognolo. «San Nicola da Bari», il martirio di San Placido, il battesimo del Redentore con sciami d'angeli in giro, corone, festoni e rami di palme sulla volta. Lo scalone sbucava nel corridoio di Levante, dinanzi alla grande finestra che metteva nella terrazza del primo chiostro. «È là», disse il priore inchinandosi verso un'ombra nera che passava dietro i vetri. L'abate, dall'esterno, attaccato il viso al finestrone e riconosciuti i visitatori, esclamò, gestendo: «Apri, apri, Ludovì!» Il priore fece girare la spagnoletta e, presa la mano del superiore, la baciò rispettosamente. Il principe e il principino seguirono l'esempio. «Benedetti, figliuoli, benedetti! Questo è dunque il nostro monachino. Oh, che bel monachino ne vogliamo fare! Con Salvo, eh?» domandò rivolto al principe. Poi al ragazzo. «Con Salvo, tu sei contento di stare con noi?» «Rispondi, rispondi a sua paternità!» Il ragazzo disse, guardandolo in viso. «Sì!» Giunto dinanzi alla sua porta, l'abade diede qualche ordine al cameriere. Poi tutti si diressero al noviziato per il corridoio dell'orologio, lungo più di 100 canne, il cui finestrone di fondo pareva piccolo dall'opposta estremità, come un occhio di bue. «Vedrai che bello qui!» diceva il maestro al nuovo arrivato, accarezzandolo. «Ti divertirai con tanti compagni!» Consalvo chinava il capo, lasciava che dicessero. La curiosità del primo momento gli era passata. Sentiva adesso una gran voglia di piangere. Non di meno guardava tutti in viso, quasi in atto di sfida, per non darla vinta a suo padre che aveva per forza voluto metterlo lì dentro. Le camere del noviziato aprivano tutte in un giardino destinato unicamente al diporto dei ragazzi. Non c'erano soltanto fiori, ma alberi fruttiferi, aranci, limoni, mandarini, albicocchi, nespoli del Giappone. E la mattina un pigolio assordante di passeri svegliava i novizi prima ancora che Fra Carmelo venisse a chiamarli per le devozioni che andavano a dire nella cappella. Basta essere ai benedettini, o monaco o novizio, per significare che uno è signore, spiegava Fra Carmelo al principino. Qui entrano soltanto quelli delle prime casate, come vostra paternità. Consalvo riceveva così le stesse lezioni che gli aveva fatte donna Ferdinanda. Le digeriva meglio che non l'altre del latino e dell'aritmetica. Esse gli davano un'idea straordinaria di quel che valeva, ma gli procuravano anche di solenni scapaccioni dai compagni, specialmente dai maggiori d'età, per il disprezzo col quale li trattava. Michele Rocca si gloriava d'avere anche lui un viceré tra gli antenati, ma Consalvo correggeva. «Viceré, presidente del regno!» E l'altro. «No, viceré!» E Consalvo. «No, no, presidente!» Allora, piuttosto che venire alle mani, egli gridava soccorso e a Fra Carmelo toccava comporre la lite. Ma ricominciava con gli altri, attaccava brighe sopra brighe. Quasi tutte quelle famiglie baronali avevano un nomignolo spesso ingiurioso o avvilitivo, col quale erano conosciute in città più che col vero nome. Thank you.